Here you go. La parola è chi lo prende. Il Vangelo parla a tutti. La frase del Vangelo di oggi che mi viene da commentare è quando dice è giunta l'ora. Ogni giorno siamo posti davanti a delle scelte, a volte semplici, a volte un po' più complicate. Ma verranno anche i momenti, vengono, in cui dovremo fare delle scelte più difficili, in cui ci vuole un po' più di coraggio, in cui sentiamo che il tempo è maturo per prendere determinate strade, a volte senza ritorno. Qui Gesù ci dice che quando è ora, è ora. Se bisogna andare a Gerusalemme, bisogna andare a Gerusalemme. Cioè, nella vita ci sono dei momenti decisivi, cruciali, in cui è giunta l'ora per dare un indirizzo alla vita stessa, per darle una nuova forma, per poi dire ho trovato la mia strada. Se uno mi vuole seguire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo, il mio servitore. Non si può seguire Gesù a distanza di sicurezza. Se si segue Gesù, bisogna essere capaci anche di affrontare le inevitabili sofferenze e persecuzioni che vivere come Lui ha comportato. E questo mi spaventa un po'. San Paolo nella lettera agli Ebrei dice che fu esaudito per la sua pietà, però poi aggiunge pur essendo divino non sarò più santificato perché tutta l'obbedienza dalle cose che patì, imparò l'obbedienza dalle cose che patì, lui figlio di Dio, lui figura uguale a quella del Padre, ciò che tu vuoi dire ciò che mi però l'obbedienza dalle cose che patisce. Ho letto un articolo di Alessandro Valeri a tempo a venire, in cui parla di Dostoevskij e sostanzialmente dell'inferno, della discesa, dell'inferno, dell'accettazione della sofferenza, che è l'unica maniera che abbiamo per riscattare il senso della vita e per provare un senso. Quando dice la bellezza non si salverà, intende la bellezza non come qualcosa da godere, consumare, ma come qualcosa che ci rimette a posto all'interno. Ora, per rimettersi a posto occorre soffrire, perché Gesù fu ascoltato soltanto nella risurrezione, non nella morte. La morte è data per necessaria per ascoltare. È l'unico modo con cui si può trovare un senso in questa vita che non avrebbe, insomma. Quindi il perdersi per liberarsi. Io faccio molta fatica qua, nel senso che per me, cioè io i conti con la sofferenza non riesco a farlo, non c'è niente da fare. Faccio proprio fatica, non ci riesco. E allora mi piace di più pensare. Mi piace di più pensare allo spunto del del primo intervento, quello giunto allora, ma non mi piace pensarlo come un momento decisivo della mia vita. Mi piace pensarlo che è giunto allora ogni momento che vivo. Cioè, e allora così diventa come un po' un stile di vita. E io questo per esempio lo devo molto a te, nel senso che mi hai un po' insegnato a non aspettare i momenti definitivi, ma a vedere quell'ora che arriva un po' ogni momento. E non lo so, perché io con la sofferenza faccio vita, non riesco a vederlo, non riesco a vedere che dalla sofferenza ci sia la rinascita, allora la lascio da parte e mi piace di più pensare di cogliere quell'ora ogni momento. Io invece vedo nella morte del Chicco invece diciamo l'abbandono di un guscio, cioè quindi la capacità di superare le difese e di approdare ad una spontaneità, ad una capacità di sentire, di cogliere. Per vivere la pienezza delle emozioni la pienezza delle emozioni, la pienezza dell'incontro, la capacità quindi di confrontarsi, di misurarsi qui e quindi di vivere, ecco, di rinascere, sì, questo. Cioè la capacità di superare le proprie resistenze, le proprie paure, di non aver paura e di liberare quanto di bello l'uomo ha per sé. E di scoprire il bello che c'è negli altri, ecco, di sciogliersi. Ci provo anch'io. In un'intervista Paolo Bergoglio, di fronte alla sofferenza, lui è un po' fifone. Ecco, e questa è la traduzione italiana, mentre il testo spagnolo era un po' più forte, dice, mi sento un ubriaco. Questo è pensato. Alcuni spunti proprio per cogliere la conclusione del discorso di Gesù Cristo. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. È chiara l'intenzione. Allude a una umanità nuova, il cui centro di gravitazione è Lui. A partire dai giornali di oggi, mi sovvengono degli interrogativi turbolenti. Ma dov'è questo popolo nuovo? Che cosa ha creato questa parola di Gesù Cristo? Che senso ha per noi, uomini e donne di questo mondo, oggi? D'altra parte, mai come davanti alla figura crocifissa di Cristo, si è costretti a non mentire, a fuggire dalla retorica. Direi che siamo azzardo nell'impossibilità di rispondere in modo adeguato e convincente. Del resto il profeta Geremia dice, parla di una nuova alleanza posta nel cuore. È un'alleanza la cui legge è scritta nel cuore dell'uomo. Questa è la legge. Dove abbiamo la possibilità di conoscerla? Chi la annuncia? Ecco il tema che è ritornato parecchie volte stamattina. È l'ora di Gesù, l'ora essenziale. Un'affermazione, possiamo anche arrovellarci il cervello giorno e notte, non avrà risposta. O si risponde con l'atto di fede, come diceva Dostoevskij. anche se fosse non vero questo Gesù Cristo, io continuerei a seguirlo. Per fare un altro passettino e chiudere. Se avete notato, ci sono dei termini usati molto chiari. Cito così: frutto, morte, terra, amore, distruzione, disprezzo, conservare, servire, seguire. Se questi termini a prima vista sembrano contraddittori, che stanno nel gioco però vita-morte, non fanno parte della vita in modo definitivo, se no c'è il chicco di grano non cade. Questa immagine così biologica, così contadina, così scientifica, così quotidiana, reale, è quella che sintetizza la vita, non solo la vita di Gesù Cristo, ma di tutti noi, uomini e donne, dell'umanità, della creazione, della comunità che i credenti, delle istituzioni che creano, dovrebbero creare convivenza pacifica, istituzioni religiose e anche sociali. Proprio dentro nel Tempio, nella liturgia, nella città, nelle proprie case. La Pasqua è legata a questo gioco, il sogno di vivere. È vero o no? Noi esseri umani, insieme alle nostre istituzioni, finiamo per negarci il diritto a sognare la vita, a volerla. Pensiamo di proteggerla e invece la conserviamo, la fissiamo e la rendiamo quasi inutile perché è troppo formale. Pensiamo di renderla più piacevole permettendo di progredire e vivere così. Scusate, salto alla conclusione. Nella vita, non so se condividete, tentiamo di togliere il diritto al limite, anche il dolore, ad essere deboli. Tentiamo di spogliarci da questi interrogativi, ma nella vita il volerla, il portarla a perfezione è un'aspirazione che può contenere un potere perverso o anche qualche magia. Oggi, finisco, oggi come in un pericoloso delirio, come fosse un gioco di potere e di prestigio, vorremmo moltiplicare il frumento e la vita in laboratorio, meccanicamente, al di là della pioggia, del vento, della fatica, del rischio. Sembra saggio, utile, come dire, che non si può mortificare i propri sogni, non si possono mortificare. E quindi nascono i mostri se si seguono male i sogni. Si spegne l'amore per la semina, però c'è la gioia del raccolto. Si va a passi di danza. C'è poi quella terminologia di ama la tua vita, non qui, più in là, altrove. Sono sempre amore e odio, è un linguaggio un po' paradossale che nel linguaggio ebraico ricorre frequente. Basta pensare al salmo che abbiamo appena pregato all'inizio. Però se qualcuno ha qualcosa da aggiungere... Gloria a Dio nell'alto del cielo. Pace in terra, uomini di buona volontà.